Mineho Uyulinelelo manamene manawanzeyo Lineho Line Lineho Uyulinelelo manamene manawanzeyo Kukaja mama wa amatengaza je kuseza bakomo bakomo pama iwaje Kukaja mama early morning amatengaza je kuseza bakomo bakomo pama iwaje Magolo wali Magolo wali Amuya mikila Akutiri nerero mwana mineyo mwana wanzeru Magolo wali Magolo wali Amuya mikila Akutiri nerero mwana mineyo mwana wanzeru Buonasera Lineho Lineho Uyuri nerero mwana mineyo mwana wanzeru Ci siete, ci siete? Buonasera a tutti. Dai, dai, reggae maniaci. Ce siamo, eh? Agire gogo ana madingo Zamu ya mikila Udina madingo Manamene Manawanze Vedi, vedi, esistono anche i reggae maniaci Zamu ya mikila Udina madingo Manamene Manawanze Simuku na makoko Tavizi na me Stasera, seratina particolare Parleremo alla natura Sarandeka Parleremo di un vegetale conosciuto o sconosciuto a molti purtroppo. Gonda mamma, gonda mamma, gonda une mamma mwe, gonda une mamma mwe, gonda mamma jala manda, zafera moenda mwe. Gonda mamma, I gonda une mamma mwe. Parleremo di quella pianta che cresce sulla tomba di Re Salomone. Buon bambino, bambino, bambino. Elemento fondamentale della religione Rastafari. Ai bae zogo matuma unalero ndipo chala manda ai bae zogo matuma unalero gamba kuti mwagwadira mwabala mwana oyera zina laje musoro aspettiamo ancora qualche minuto i ritardatari della forchetta chi se sta a mettere il pigiama chi se sta a mettere l'antopole beh l'importante è che si mettono comodi per sompettare vabbè stasera faremo un viaggio mistico insieme Non so se si è capito, ma stasera parleremo della cannabis, come tutti conoscono meglio marijuana, o per gli estimatori, ganja. E allora, anziché il solito jingle iniziale dove stiamo nel bunker a sentire il vinile, noi stasera abbiamo preso la palla al balzo e visto che dedichiamo la serata a questo fiore magico, sentiamo i Ratatouille che parlano di una certa somarina giamaicana. Boo! Mama scusa, ma abbiamo chiesto il permesso per passare questo pezzo? Ci siamo improvvisati, dai, dai, dai. Si fa tua zuppa. Cominciamo subito la serata. Diciamo che nel periodo Skyrock Steady, Lireg, i testi erano pieni di gioia per una falsa, falsissima indipendenza, regà, dal Regno Unito, no? Dalla regina. Tanto ormai la bauxite era finita, erano rimaste giusto le banane, ecco perché Ri Bella Fonte cantava Banana Boat. E insomma, quando i Rasta iniziano a integrarsi al reggae e tanti personaggi del reggae si convertono al rastafarianesimo, e il fiore più bello e profumato del pianeta fa il suo ingresso nei testi, proprio col nascere dell'era roots, dove i testi, Gigi, come parlavano? Erano testi di preghiera, protesta e venerazione della ganja. I won't tell no lie. If you listen. serata dedicata al più bel fiore del pianeta non poteva che partire con il re e con il suo Natural Mystic. E noi un messaggetto del genere lo facciamo proseguire dal suo degno compare, tale Peter Tosh, o sbaglio? Boh! Bush Toto! Warning. The Sergeant General warns. Già l'abbiamo sentita. Parla proprio di questi rasta che si curavano da soli proprio con questa pianta. E stavano un po' fuori dal coro, rimanevano un po' alla periferia, via. Them legalize marijuana. Qualcuno! Mamma mia, per i rasta fumare la ganja era un gesto spirituale, un sacramento che pulisce il corpo e la mente, innalza l'anima, esalta la coscienza, favorisce la pace, porta piacere e soprattutto avvicina a già. Noi c'è un'altra religione, vabbè. Does that mean anything to you? Legalize marijuana. Right here in Jamaica, yeah. Them say it cured glaucoma, yeah. I'm an Adi Bush doctor, yeah. So there'll be no more insomma, mo, a prescindere che se sia favorevoli o meno a questa erba, la ganja in Giamaica è letteralmente parte della cultura, nonché elemento fondamentale della religione, anche se i giamaicani stessi preferiscono definirla più uno stile di vita. Saremmo finito di cenare, stavamo a mettere sul divano. Dai, invece che vedere questi programmi in televisione, mettiti un paio di cuffie, ascolta qua. Questa è Reggae Mania. Dopo il degno compare, un altro bel pezzetto, International Farm. Mi pare che l'abbiamo pure vista pubblicata sulle chat, sulle cose in questi momenti. Lui è Peter Brooks, International Farm. Siamo ancora tutti vibranti dalla sera dalla casa della pace. Big up a tutti quelli che c'erano. Non è che possiamo fare l'appello, insomma, non so se vi siete resi conto, però questa sera, piuttosto che presentare un cantante o piuttosto che un pezzo, abbiamo preferito presentare questa pianta, la cannabis, e ne parleremo durante le due orette che staremo insieme. E quindi non ve ne andate, che c'è tante ma tante cose da dire, dalla A alla Z. Detto prima, la pianta comincia a fare il suo ingresso con l'avvicinamento dei Rasta al reggae e di parecchi artisti che si convertono al rastafarianesimo e portano questo tipo di testi. È proprio inizia l'era roots style, un po' più lenta, pesante, però con testi un attimino seri, raga. Vi siete persi i Rudfish 3.0 e finisce, ma torniamo ancora col nostro re Misty Morning. Beh, un bel risveglio, eh? Rastafarianesimo era un'ideologia spirituale con delle fondamenta africane, si è sviluppato negli anni 30 in Giamaica, paese prevalentemente cristiano e del quale viene accettata parte della Bibbia, anche se in alcuni passi è considerata corrotta, e accetta poi l'esistenza di un solo Dio chiamato Jah, che ha mandato suo figlio sulla terra sotto forma di Gesù o Silasse. Siete tutti. How can you ever give you more to receive your less? Guarda che facciamo l'appello, eh? Like my good friend said in a reggae rhythm, can't drum, you can't jump in the water, you can't swim. I want you to straighten out my today, my tomorrow, I want you to straighten out my tomorrow. And I miss the morning. Straighten out my tomorrow, my tomorrow. Need some straightening out. I want you to straighten out my tomorrow. Rasta. Midri Diamond, non so se conoscevate, beh, Pischelletti proprio, regà. Pass the cookie, passami sta merda, dai. Passa sta merda, cazzo. L'originale è un po' diverso, mi pare. It was a cool and lovely breezy afternoon. Sì, effettivamente ce ne sono tantissime versioni di questa canzone. E noi, guarda caso, abbiamo scelto quella dove ti pare. Di che parla? Senza dilungarsi troppo sulla religione, su cui insomma si possono trovare diverse informazioni un po' ovunque, noi vorremmo accennare un attimo alle relazioni che intercorrono tra la religione e il consumo di questo medicinale da parte di quei personaggi che vengono considerati dei dottori nel villaggio, l'abbiamo detto prima, no? Bush Doctor, che oltre a coltivare la ganja curano con medicinali naturali e conoscono tutte le proprietà mediche delle piante che con loro con molta dedizione si coltivano. Quindi crediamo, questo è molto interessante, spiegare il ruolo della ganja, che per un rastavero, quello vegetariano, coi dreadlock e la barba, perché quelli senza barba, la maggior parte dei casi, occhio che sto gigolò, Che magari finisce così, ma davvero? Vabbè, dai, andiamo oltre. Livia Thompson, com'è che dice I love marijuana? Marijuana, I love it, my brother. Marijuana in my soul, marijuana in my heart. L'illegalità è vissuta come un atto proibizionista tipico del mondo bianco, dovuto al fatto che, aprendo la mente di chi fuma, questa porterebbe a maggior coscienza del popolo nero, cosa che il mondo materialista bianco non vuole. Sabato, regà. Sabato, mo, 25, no? Sabato adesso. Sabato, che ci avete da fare, regà? Magari Gigi poi propone qualcosa, per esempio. Tanto passiamo al jingle, poi spieghiamo prima, come volevamo fare. Che ne so, sabato, per esempio, che ci sta? Sai perché? Al Brancaleone, regà, Brancaleone, radio indipendente a tutta Italia, Gemini Day. Vi aspettiamo il 25 marzo al Brancaleone di Roma per il Gemini Day, una giornata di workshop, musica, dirette e birrette con le radio indipendenti di tutta Italia. Seguici su gemininetwork.it. Sabato 25 marzo Brancaleone, Radio Indipendenti a tutta Italia, eh? No Benjamin, your respect concrete to the maximum. E allora attraversiamo un attimino Eva Rabadab. Ganjaman, kandema money man. Ganjaman, kandema money man. Ganjaman, kandema money man. Ganjaman, kandema money man. You get the good ganja, say from Jamaica. You put it on a plane, send it to America. When it reach America. Se hai capito che il titolo è Ganjaman. Get it, it reaches to Rwanda. The store Rwanda. Get it and then it reach this seller. The seller know that him and the hustler. So when ganja done. Lui è Lone Ranger. DJ. Beh, cerchiamo comunque di mantenere una cronologia, uno stile dopo l'altro. You even have ganja down in America. Yes, Daddy Ranger, you are the teacher. Because I know you want the rules and enough culture. Because ganja man, can them a money man. Dip. Ganja man, can them a money man. In front of the White House, the ganja happy down. Smoke from the chalice, make President Billy get drunk. Jump gun line, big fast on the tank. Gun up at the castle, he go light up him lamp. Run come back outside with him gun, him gun crank. Run me down Joe Valley and him run down Joe Swamp. Dip. Ganja man, can them a money man. Dip. Ganja man, call them a money man. Right, down in New York with the ganja pipe on. Me smoke one split bubble and see more run me down. Back in me gun, boss of me head. He's a lucky thing, me granny dead, they help me with a dead. Dem, ganja man, call them a money man. Ganja man, call them a money man. Dem a style, we no wiki, dem a style original. When me back up on the street. Ma che vi siete già dormiti tutti quanti o la primavera vi sta a fa bene? Now me wiki down be versatile. Come and say, ganja man, call them a money man. E siete alle prese con la ganja. Ah, dentro casa sua ognuno fa quello che gli pare. Una dopo l'altra, una dopo l'altra. Allora adesso ci andiamo in... Com'era? Andiamo nel dub, Gigi, cominciamo a attraversare l'epoca dub. E parliamo sempre della stessa cosa. Scancanesi, Agus Pablo. '77 Swing is a rhythm. Sia pratica comune fumarla, la si fuma solo quando il proprio animo è disposto ad elevarsi e non quando invece si è inflitti dal dispiacere, cattivi pensieri, insomma, ampi- modifica gli stati d'animo, quindi insomma se ci avete un problema non fumate, perché sennò amplifica, vi buttate. Deve essere un mezzo che aiuta a aprire la propria mente e la coscienza, e non qualcosa senza scopo mistico o profondo, capito? Beh, ci fondano una religione, insomma, un po' di serietà, eh? Via via Smoking Ganja, Capital Lecter. Ma è dub sto pezzo? Per me no. C'ha un po' di skunk. Pure bello e chiotto, 1979. Beh, iniziava il dub. Smoking my ganja. Smoking ganja. Osservano la religione, seguono un regime alimentare chiamato Ital, dalla parola Vital. È un'alimentazione completamente naturale, libera da agenti chimici, conservanti, vietato mangiare maiale, crostacei. La maggior parte dei rastafariani sono vegetariani o vegani. Caffè e latte sono rifiutati in quanto considerati non naturali. Qui potrei avere qualcosa io da dire, vabbè. E non condannano l'uso dell'alcol in quanto è un fermento chimico, rende, e più che altro loro dicono che rende una persona stupida e nei momenti di ubriacatura si lascia manipolare dall'uomo bianco. Beh, però effettivamente l'alcol è veramente cattivo, ragazzi. Fa certe cazzate. Forse è la droga più pesante che possa esistere. Non parliamo dell'assunzione controllata e con calma, per piacere, eh? Non vogliamo condannare nessuno. Saldone Valdo, Massimo, dai che ci seguono su Faccia Libro, dai, eh. Yeah. c'hai? Ma appresso, appresso cominciamo, vabbè, andiamo un po' avanti col tempo, un po' di news car, roba un po' nuova, Mungo Sci-Fi, Bussaforte, Herbalist. Mungo Sci-Fi, number one champion sound, my long side free spotty man, husband up on the guest, my fatigue's the sound, never play a good tune like this man, now he comes a man called Mr. Tom, can't talk about the Herbalist, yeah, I'm Herbalist man. Tell them already, me, I tell them again. Tell them already, me, I tell them again. So we are herbalists, aye, we are herbalists. Madam, bam, bam, aye. Tell them already, me, I tell them again. Tell them already, me, I tell them again. So we are herbalists, aye, we are herbalists. Madam, bam. You're dumb chemist, right about down, be a dumb specialist. Ci abbiamo una foglia nel bunker che gira, che girovaga. Babylon. Make me tell you something with your dumb chemist. You never know how we are dumb specialist. I use a Prince Fatty in my dumb specialist. One more time. We are herbalists. Aye, we are herbalists. But dong dong. I Rasta hanno anche sviluppato un loro linguaggio, con alcune differenze dal britannico. I Rasta parlano il Padua, una sorta di inglese mischiato a un ritmo e parole africane, le cui differenze con l'inglese sono un po' difficili da trovare, eppure ci stanno. Specialmente per uno che non capisce manchi inglese. Che farà poi parte di il Selassie AI, prende il posto di me. Non c'è una separazione tra I and I. Il me farebbe diventare le persone dell'individuo, un uso indiscriminato. Insomma, l'indica la relazione personale con Dio. Io sono International Herb, International Dump Plate, yeah. È un po' come rispetto al prossimo duo, come te stesso, qualcosa del genere. Madonna, senti che pezzo, non si è ricordato. Beh, per fare gli agguerri devi conoscere. Dice che i Ratatouille stanno al bunker loro, eh? Wow, stanno a dare, eh? Zion, Zion, aveva sentito? È quell'equilibrio perfetto tra i diritti umani e la dignità. Zionland, insomma, una cosa lontanissima. Vabbè, regà, lui è per l'angoletto pop, ci facciamo l'angoletto pop e non ci facciamo manca niente. E infatti dice che se diventa il re del pop, si apre un coffee shop. Oliver Scardi, pittura, pittura, son Venezia. Cosa fa il palco, cosa fa il palco? In giro solo tocchi che spusa e non fa un cazzo. Che schifo cosa sei, origano col tè. Patina per semo e osmarino, che se deve tornare del pop e compro vetore del pop me compro un coffee shop. Coffee shop, coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Acota che si ho abidum, io si na metano io dentro calderon. Ti risti in impressione se ti mangi il mascarpon. Che avevo un pensieroso adesso sei marron. Tendi assaiata, cae radiación. Ti mangiava camata, ti va in animación. L'aria si inquinata, se tenti respirar. Se tenti con sabe che devo decontaminar. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Coffee shop, coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Coffee shop, coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Gozza pa' il pacco, gozza pa' il pacco. In giro sui tocchi che spuse non fa un caso. Che schifo cosa si origano col tè. Patina per se moio che se finì tempi dei basi. Quello che te serve paga e tasi. E qua è scusa della crisi. Non arriva a noi magnan capisci. Coi prezzi sempre più cari, cari. In vena per far affari. Poi una bottega dei canoni seri. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Se te vetore del pop me compro un coffee shop. Coffee shop. Potremmo anche parlare di tutto il loro linguaggio. Per tutti l'overstanding o understanding al posto dell'understanding, madonna è un bici inteso un po' come illuminazione che porta alla coscienza. Boh, vabbè, noi adesso andiamo proprio un attimino di là in Inghilterra, attraversiamo la manica. Loro sono i Selector, Mike Holly, Not a Dog. This is a government health warning. This? Smoking can seriously damage your brain. Hello, my Cali. My Cali. It makes me feel so high. It gives me deep meditation. Oh, my sweet Cali. Hello, my Cali. It makes me feel so high. Dog, Michael. Io sto pezzo mica avevo capito che era sta questione così, Messaggi subliminali. Oh, my sweet darling. reggae è spesso associato al movimento Rastafari, che più fortemente ha influenzato dai musicisti reggae negli anni 70, 80, scusate. Ecco l'organio. Oh. Scusa, dove ce l'hai questo cane? Quando l'hai messo? Come mai c'è un cane dentro al vaso? Non puoi mettere i cani dentro al vaso, Dai, dai, noi che ci sentiamo, Gigi? Che ci sentiamo, mo? Oh, ammazza, che ci sentiamo, Gigi? Ma è sempre ganja smuggling in Nicamuse, raga. Siamo entrati in quel periodo che noi definiamo, sono gli anni 80, no? Dove comincia a nascere quella dancehall fatta sui ritmi anche vecchi, Put it on a plane, go we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me just a muggle up the lane in a rope gold chain. Hey, me and me girl. Com'era? Tuttavia gli argomenti trattati nei brani reggae erano in origine lontani dalla religione rastafari, con canzoni d'amore, temi sessuali o sociali, esattamente non proprio in linea con le tematiche affrontate precedentemente nello ska e nel rocksteady, no? Questa è Reggmania assolutamente in vinile grazie a Pirate Radio. Amarvisa. Prima che la cultura rastafari influenzasse la musica reggae, i testi e le musiche erano meno retorici e complessi. L'indie reggae era caratterizzato da tematiche ispirate a musica R&B, soul americana, no? Inna the mud, me a pick only, but a me a load them down in a foot hub. Hey. One by one, load off the van, all of the ganja it ram. Put it on the plane, go we gonna Spain. Money just a pour like rain. Me dust a muggle up the lane in a gold rope chain. Hey. Me and me girl named Jane. Dang dang, diddy bang gong, giddy bang. E allora dai, cominciamo sto viaggio insieme. Cominciamo sto viaggio insieme, regà. Down there in the ghetto I go, where tribulation I once know. Mommy and daddy, all are we so poor, we all had to sleep on the floor. Vi state a sdraiare sul divano? No, sul divano no, che ve se succhia. Mi shoes tear up, mi toe dust a show, mi no know how if he really run go home. Mama tell me no rap broke store, police beat you, make your back so whole. Dang dang diddy dang dang, giddy bang bang giddy den, peda bokoy, bede bede beden. Vabbè, questo è un pezzone che lui è John Holt, si sente tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto tutto. I search for marijuana. Policemen in the streets searching for Cali weed. Soldiers in the field burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Soldier in the herb field burning the Cali weed. Police in helicopter a search for marijuana. Cerca, cerca. Policemen in the streets searching for Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane field. I Rastafari in origine non erano molto, non erano affatto interessati a prendere parte alla vita sociale della Giamaica. Preferivano vivere isolati sulle colline, conducevano un'esistenza semplice e del tutto naturale, caratterizzata proprio da precise regole religiose e comportamentali. Searching for Cali weed. Policemen in the field burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. We don't trouble your banana, we don't trouble your corn. We don't trouble your pimento, we don't trouble you at all. So if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane. Reggae mania. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Ooh, yeah. Police in helicopter, I search for marijuana. Policemen in the streets, searching for Cali weed. Policemen in the fields, woyo, burning the Cali weed. But if you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. If you continue to burn up the herbs, we gonna burn down the cane fields. Voce inconfondibile. Them say, hey, naughty dreadlocks, where you come from? You must have two speakers sensi. Va bene, questa è Reggae Mania. Lui è Barrington Levy, Under Me Sensi. Stavamo un attimo fantasticando. Fantastichiamo. Voliamo, voliamo. Rimaniamo sempre un po' bambini, capito? Ci basta poco. Restiamo nell'epoca dancehall anni 80. Almeno noi così l'abbiamo classificata, eh? Dopo varie discussioni. Ah, bella discussione, è sempre aperta a tutti, eh? Anzi, si accettano critiche. Non ci vogliamo assolutamente sostituire al verbo. All over me, Babylon, just all over me. Take them all over me, Babylon, just all over me. you know like ganja man, but we bring the foreign currency on the island. Dai raga, è quasi un'oretta ormai che stiamo insieme. Stiamo ancora un'oretta insieme, tutti qui a ascoltare musica. Dai che mo ci cominciamo a scaldare, si alzano un po' i ritmi. But we bring the foreign currency to Thailand. Hey Babylon, you not like ganja man, but we bring the foreign currency on the island. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, see. Stand up on volcano sound and upon me ganja pipe. Babylon, come and tell me that no right. I said up on the chin, pass it on the right. I said them coming and them look on the jet. Them say, hey, naughty dreadlocks, where you come from? You must have two sticker sensei under your thumb. Me say, no, officer lord, you must be mad. He only smokes cigarette and strictly shag. Oh, whoa, oh, oh, see, oh, oh, style, oh, oh, oh. Under me sensei, me under me sensei. Under me sensei, me under me sensei. Under me sensei, me under me sensei. Whoa, oh, whoa, see. Under me sensei, me. Questa è Reggae Mania. Under me sensei, me under me sensei. Vabbè, ma la prossima, ma che ve lo dico a fa, 1982, gioca, smoca, ridi. Sorry, my friend. Ci sentiamo. Vabbè, cosa succede? Questa è Reggae Mania. Johnny Clark, Easy Skanking. Perché l'abbiamo sentito pure prima, al contrario, però. Prima mi sembra la versione dub di Augusto Pablo, no? Sì, quella però era Skanking Easy. E questa è Easy Skanking. Alla fine che ho spammato il prossimo pezzo. Excuse me while I light my spleen. Good God, I gotta take a leap. From reality I just can't dream. That's why I'm staying with this. Questa è Reggae Mania. Meno male che andiamo per terreno de punto. Torniamo a noi. E 10 anni dopo l'indipendenza dalla Gran Bretagna, il popolo giamaicano comincia a accorgersi di vivere una situazione peggio rispetto a prima. L'isola cominciava a accusare un forte stato di disoccupazione, crimini, violenze. Molte delle nuove generazioni giamaicane che erano cresciute con l'indipendenza erano vittime di tutto quello e reagirono con l'arma più potente che c'era a disposizione, ossia la musica. I'm taking it easy. You're taking it slow. State con le cuffie sul divano? Dai, però il piede batte, il ginocchietto si alza. Ce la sentimo un'altra, ci sentimo quella che ho presentato prima, 1982, Gioca Smoca Rhythm, Tristan Palmer. Gioca Smoca, Gioca Smoca. Somma Gioca Smoca, Gioca Smoca, Gioca Smoca. Smoking is a habit. Someone can maintain it, oh yeah. Them come find your corner, them a beg you sensimania, oh yeah. You give them sensimania, them a beg you a rizzler. You give them your rizzler, them a borrow your lighter, oh yeah. To give away, I don't feel no way, but every day I beg you a cigarette, sir. Me a borrow your lighter. Smoking is a habit. Someone can maintain it. Oh yeah. Them come find your corner. Them a beg you sense me. E quindi al sorgere degli anni 70, insomma, i temi cominciano a mutare, cominciano a dar voce alla protesta del popolo che desiderava esprimersi proprio contro il governo, e un largo numero di questi abbracciò la religione Rastafari non solo come manifestazione di ciò che volevano ottenere dal governo, ovvero pace, amore, lotta alla corruzione, ma presentavano pure uno stile di vita alternativo all'interno di questa povertà che dilagava ovunque, capito? To give away, I don't feel no way, but every day you are come with the same thing. Me I beg you a split, sir. Me I beg you a cigarette, sir. Me I borrow your lighter. Cause them a joke a smoker. Beh, Gigi ha preso in mano un LP. So tutti i pezzi che parlano di. E infatti ce ne ascoltiamo tre o quattro dei pezzi da quell'LP, eh? Anthony Malvo, Mika Rose, Mitre Demons. Cominciamo un po' da, continuiamo con un po' di muffin. Ma che salta? Amen, vini, sound. Dema beg you a rizla, ca dema joke a smoker. Joke a smoker. Joke a smoker. Dem come find your canna. Wow, fermi tutti. Ci accorgiamo in questo momento che siamo live allo Spirit 24 a Monterotondo, dove tutti zompano, ballano, bevono. Bella Monterotondo, stiamo tutti là, dai! Wow. No cook and crack, you better step back. Abbiamo detto epoca mafia. Spirit 24, dove è iniziato tutto il 23, no? Tutto al 23, come oggi, 23, porca miseria. Saluto a Francesco. Tutti quei bravi ragazzi che c'hanno lì a lavorare, eh? Patroclo. L'ho detto. If I have a challenge, Rasta, don't have my break. I'm gonna smoke it in the morning. When? Smoke it in the evening. E l'altro com'è quello col bel culo? Jacopo. I smoke out the warning. Got to breathe. I preach out love between my brothers and my sisters. All over this land. Front of station, the ganja pipe a bun. Smoke from the chalice, make the Babylon high run. Him get vexed, go in, go clean up him machine gun. And come in at the dance one, come run Josie down it up the bun. Lord, ganja pipe up the bun. Bang the ding, the ding, the ding, the ding, the ding. Hey, from Inspector Corporal to Sergeant, the whole of them are big up our frata. Push down the little gate, man, and say move your hand. Per non trovare più i coriandoli ha dovuto cambiare locale. Ganja pipe is my favorite tool. And I and I am on this rock. Me a go a train in school. Lord, I got it up in bun. Lord, ganja pipe off in bun. Smoking sensei. Smoking senses, alright. Morning, evening, noon, night, you know. Smoking senses, alright. It's alright. And if I have a charity, Rastanoda, I would legalize the senses. Eradicate the cocaine. Ricordiamo a tutti che la serata è dedicata a quella favolosa pianta che molti amano, molti venerano, c'è una religione. No man, hey, him dip in his pocket with some brown paper, and him wrap up a draft in the lawyer. Then him wrap another draft in the doctor. Then him wrap another draft in the teacher. Now the lawyer and the doctor confess, hey, ganja pipe is a thing we all less. Your bong is hungry belly and it mash up your chest. Ganja pipe. Dai. E allora, questi Rastafari seguirono gli insegnamenti di Marcus Garvey, autoaiuto, rimpatrio, per dar voce alla speranza. Nel momento in cui molti musicisti aderirono al movimento Rastafari, l'influenza dei Rasta, oltre al sound, divenne proprio più chiara. Gran parte dell'ottimismo tipico del reggae sembrava proprio sparì. Il basso elettrico diventava profondo, pronunciato, il ritmo viene rallentato, i testi sembravano promettere fuoco e fiamme. E boom! Michael Rose. Don't cut down the cali tree, because it make the best thing for me. Doctors say it is naturally one thing the structure will need, a lot of food to survive and go through in Babylon. Starting I got the soccer sex mania booming in my backyard. I got the soccer sex mania. Sensimilia. Yeah. Per gli avventori dello Spirit 24 è vietato ballare sui tavoli. Continuiamo. Regà, vi ricordiamo l'appuntamento di sabato 25 marzo al Brancaleone. Com'è che dice? Gemini Day, radio indipendenti da tutta Italia, regà. Vi aspettiamo il 25 marzo al Brancaleone di Roma per il Gemini Day, una giornata di workshop, musica, dirette e birrette con le radio indipendenti di tutta Italia. Seguici su gemininetwork.it. E allora regà, sabato prossimo tutti al Brancaleone, Gemini Day, tutte le radio indipendenti da tutta Italia, un po' come noi, quelli che fanno casino, che rompono i coglioni la sera e wow. Gigi, allora adesso che ci sentiamo? Midnight Diamonds. Passing like a plane, burning down the walls of Babylon. Pass the coochie on the left hand side. It a go burn. It a go done. That's why me tell them say, uno better pass the chalice in a circle. Uno better burn it till the coochie get purple. La cannabis. Say, pass the chalice in a circle. Uno better burn it. Regà, in Jamaica è illegale. Man a pose up on the wild behind a young curtain. Il possesso di piccole quantità è stato ridotto a un reato minore nel 2015. È conosciuta localmente come ganja e il consumo a livello internazionale gioca un ruolo di primo piano nell'immagine pubblica proprio della nazione, essendo legato a pietre miliari culturali come il Rastafari e il reggae. Pass the chalice in a circle. Put a bit of money till the country get purple. It a go done. It a done. So I stop to find out what was going on. Yeah. Ideally, you will live on. Up there, you know, he leaves. Wisdom, knowledge, and understanding. Health and strength coming from the earth. She was there and Il fratta che ci richiama all'ordine. Facciamo un gran saluto a Lorenzo che è appena tornato dall'Islanda, vero Francesco? E pure a Martina, giusto per le quote rosa però, E allora quasi tutti i giovedì Reggae Mania. To all Rasta man who a swing the chalice from hand to hand. You sit down with your colleagues or sit down in a your gang, smoking the herbs and a meditation. Differentiate the right from the wrong. The herb was found on the grave of Solomon. Don't tell them say we not deal with corruption. We a go show the youth them the right direction. Look for mighty diamond article Rasta man. Look for fragger rocks from the teach the nation. Tell them pass the chalice in a circle. Come and bring money till the country get purple. Burn earth. Pass the country on the left. Exchange now, rapper. Pass the country on the left one side. Chi è che se l'è consumato sulla cassetta? Porca miseria, ancora la cassettina. Wow. Ma indovina chi è che si è consumato sulla cassettina? Chi è? Non sono riuscito a capire. Chiuppo! Boh, salutoni Chiuppo, big up, cassettina consumata. Grande. Noi continuiamo con 10 pounds of ganja, perfect 2009. Arriva. Hey police boy, we face. I'm over the light of Chalwa. E ancora big up Yupo. Don't you take it for me, Chalwa. Il tralupietto. Yeah. 10 pound che erano i famosi due scudi. Si dice che fu introdotta in Giamaica tra il 1850 e il 1860 da servi a contratto importati dall'India durante il dominio britannico. E molti dei termini usati nella cultura della cannabis infatti in Giamaica sono basati su termini indiani, incluso il termine ganja. Boy, them melt like Kisco. I'm not no ear candle, we ain't neither Cisco. Reggae music, me sing that calypso. Tell Babylon, tell Pound a canta me a book na me caravan. This a my naughty ears, can't touch me clocks, can't touch me ears. Then again, tell Babylon, tell Pound a earth, me a book na me caravan. Tell police boy reverse, can't touch me clocks. Oh, what a hard struggling. I've got to smoke my marijuana while I have some juggling. The food is in the kitchen, in a the pot bubbling. You see the ghetto youth on the roadside, no troubling. Tell them, Babylon. The earth we have in a me caravan. This a mine, not yours. Can't touch me locks, can't touch me locks. Then again, tell them, Babylon. Contraccambiamo i saluti che arrivano dallo Spirit 24. E com'è Gigi? Ci hanno mandato un video, un audio, ci mandano un saluto. Big up a Cristo. Boys sintonizzati. Radio Mania, com'era l'altra? Su Pirate Reggae. Ascoltatela. Radio Web. Dai, sintonizzatevi. Dai. Papa Cristo. Sizzla. Smoke my herb. All I wanna do is smoke my herb. Sound the problem. Di bussano big up. Me up a press and really up. I give thanks and praise, then I blaze it. It's the la cannabis. È stata vietata in Giamaica ai sensi della Ganja Law del 1913, sostenute da elite bianche e dal consiglio delle chiese evangeliche. Le leggi sono state gradualmente inasprite nel tempo, non dagli accademici, con gli accademici insomma, che hanno notato che le dure restrizioni del 41 e del 61 si sono verificate proprio durante i periodi in cui le autorità temevano disordini con le classi inferiori, no? Insomma, siamo tutti bravi a fare i grossi con i più piccoli, insomma, con i più deboli. To all the system, I'm a lifelong in that get on me up a person, really upset. It's not your reggae maniaci, ci siete? Yet marijuana bears so much criticism. A man a smoking ganja and a reason with him bread dream. And in Babylon lock him up a jail sentence, them give him firebun. All I wanna do is smoke my dai che arriva la primavera, arriva l'estate, cominciamo a uscire fuori, cominciamo a pigliare un po' d'aria, magari andiamo in qualche locale. Beh, con l'aria fresca si può stare fuori. Testaccio, Monterotondo, si potrebbe provare. Casa calda. Mia fama è dappertutto, eh. Ganja. Rastafari. General Levy, Einstein Grid, come re fa? È vietato ballare. Get up from the divano. Coming fresh from the west, where this says highly blessed. When I smoke my cess, I reconnect with mama earth. I can feel the oneness. Why Babylon won't come stop the niceness? I big split me use and blaze out this dress. In the Bible, you know, say Jah Jah make this statement. Him give man earth for use, grow and manifest. Just give me the highest grade. That's what we blaze. Gigi Ruz ai controlli del bunker. Paesana, rollala nella cartina e poi fumala fino a quando ti stona. Giulio Sprea, alza la mano se ti piace coltivarla. Se non ce la puoi fare ti accontenti di fumarla. Da quando 15 anni vado pazzo per la ganja. Organizziamo un viaggio, sono andata per l'Olanda. Che poi coi prezzi che ci sono in giro devo farmi in quattro per avere uno spino di ganja. Se ci penso mi viene il magone. La migliore soluzione resta l'autoproduzione. Produco quanto basta. Ogni settimana sembra di essere in vacanza. Indoor, outdoor, fumo la mia ganja. Con i miei amici tutto il giorno sto in vacanza. quella paesana. Cartina e poi fumala e gusta nell'aroma. Piantala, nutrila, coglila e siccala. Ci piace la paesana. Rollala nella cartina e poi fumala fino a quando ti stona. Boom, boom. Quando vado via in mezzo alle Marche, la terra mia. Fumo la macchina con la mia zia, con i miei cugini e zio Trillia. Faccio certi viaggi. È vietato ballare sui tavoli. A meno che non c'è la minigonna o il pettorale serio. La nutri, la cogli, la essiccala, sempre sei gancia buona. Rollala nella cartina e poi fumala, e gusta nell'aroma. Pianta la nutri, la cogli, la essiccala, ci piace la paesana. Rollala nella cartina e poi fumala, fino a quando ti stona. Piantala a marzo, che il sole è bello alto, coltiva nel giardino. Ecco, a marzo ci siamo, eh? Fino a settembre, non stare lì a far niente. Spettoso, è un circolo vizioso, coltivo poi raccolgo e non mi stanco mai. È reato, mannaggia chi l'ha inventato. Davvero se ti sgamano passi dei guai. Ma non ci voglio pensare, voglio continuare a fumare con tutta la compagnia oppure solo come un cane. A progettare, poi costruire castelli di cartine che solo a pensarci sto male. Prova col bongre, il carciofo nel trifate. Torniamo alla cannabis, torniamo, non ci siamo mai mossi da sta cannabis. L'uso era consueto in Giamaica da oltre un secolo. Negli anni 60 i coltivatori di cannabis iniziarono a trarre vantaggio dalla crescente domanda in Europa e Nord America, portando a un aumento delle forze dell'ordine, ma anche alla corruzione dei sistemi di sicurezza, politici e parte profitti dei trafficanti internazionali. Porca troia, è sempre la stessa storia. Noi mo ci sentiamo Beanieman, Silvercat, The Chronics, Ragga Muffin Time. God knows it's like a chronic reunion. New song. È assolutamente vietato ballare. Mi alla lodi treme, mi alla lodi treme, mi alla lodi treme, challenge, challenge, camino se Babylon can't take it. But tell me how the fuck stop it, when them can't stop, get my money connect. Mi alla lodi treme, mi alla lodi treme, mi alla lodi treme, challenge, challenge, camino se Babylon can't. My time, DJ Beanieman. Me saw the scene, we got the trace, and me have to rape it. Anytime we dig a bit, yeah, you know the sun, me put it. And me put it on the table, take the knife and sew it. One buckle of Guinness, me use and dead me chalice. Anytime me know the cup, she use the matches, light it. Same place, me lose the smoke, and all four parts smell it. Same place, it's smelly smoke, give me a cup and vomit. Beanieman, a silver cat, when the stop chat lyrics. So tell me how the man gonna stop it, when them can't stop, get my money connect. Lo dicevamo prima, no? È stato importato dagli indiani, ma insomma c'è chi dice che 1000, chi 25.000, chi oltre 50.000. Insomma, beh, quello che è sicuro è che dagli utilizzi della pianta della canapa sono davvero tanti e si incrociano tra prodotti tradizionali e nuovi studi che con le moderne tecnologie permettono qualsiasi cosa, insomma, no? Quando parliamo di canapa industriale, si intende che determinate genetiche della pianta è sempre quella, è quella che è stata poi demonizzata nell'ultimo secolo, additata solo e soltanto come droga, cioè non si è pensato altro. E in realtà è una pianta meravigliosa che può davvero nutrire il pianeta, eh? È la sintonia con la natura. Mi alla lodi treme, continuiamo sullo stesso genere. Me Love Me Weed. Chi è Gigi questo che canta? Che non ho capito. È Fido Guido. Queste sono nuove produzioni 2022. L'etichetta è Big Records. Dai, che parte. Fido Guido, come again, man. Hey, Big Records. L'Italia style. Just like me love me, hey. Got your milk fee bone right now. All of the girls them wind up and down. High grade a fee bone right now. Bobby wrong, you can bring me down. No, no, got your milk fee bone right now. All of the girls them wind up and down. Fido Guido. High grade a fee bone right now. Rocka style. Bobby wrong, you can bring me down. Vietato a ballare. Sensimilia light up and nice up the place. Give me the sensimilia, let me burn it again. It make me feel airy, it make me feel great. Give me the sensimilia every night and day. Oh, oh, burn it anytime, anywhere. Oh, oh, give me the marijuana, me ritmo. Francesco, non mi dì che ci stai a far sentire a tutto il locale con quelle casse che c'hai appese lì, eh. Storia dice che i due ritrovamenti più antichi di canapa tessile sono avvenuti in Israele. L'uno proveniente dalla Chrisma Cave vicino a Kurman, con datazione dei due tessuti rispettivamente del 3670 e 4830 avanti Cristo. Damo che l'erba è erba, regà, svegliatevi. Ganja man time again. Well, big up all the ganja smoker, the original ganja smoking urban hustling sense me, the smuggling rob and rough. Guarda che me la levo, c'è sopra. This is a big up to the herbalist bro. All ganja smoker, I'm talking to you. This is top cap, me just a cut and go show. Blazing the herbs and toe. There's a 1,000 miles of ganja smoker. Raise up your hand, every ganja toe. È vietato ballare. This one is a choker. This a 1,000 miles of ganja smoker. Raise up your hand, every ganja toker. You know big herb like a joker smoker. This a one is a choker. Way. A special dedication unto one ganja man. And a special request to every ganja woman. We come a dance, figure catch vibes a session. Follow me so cat with the herbalist song. From your smoke sense and miller with your hand like a fan. Make me see your hand, make me see your hand. You a blazing with the wisdom from the grave of Solomon. Make me see your hand, make me see your hand. Could I be a ballad, you could I be a rasta man. Make me see your hand, make me see your hand. Push up your lighter and turn the cellar. celebration. Make me see your hand, make me see your hand. The ganja with me smoke because a ganja with me like. I be like it in a wrist, I bond it in a ganja pipe. But I deal with the brown, I say we not touch. Per gli amici di De Faccia Libro mi sono messo questa sera una maglietta di canapa, che ciò che c'è scritto dice tutto, Mega Joker smoker. So one is a choker, and there's a thousand mile of ganja smoker. Raise up your hand, every ganja toker. You know big herb like a joker smoker. This a one is a choker, well, but there's a thousand mile of ganja smokers coming in on the dance floor. Thousand mile of the herbal is massive. Oh, yo, yo, yo. Thousand mile. Perché cada canapa ci si fanno fa pure le magliette. Adesso lo diciamo, adesso ne parliamo. The herbal is massive. Bunkale with me, you saw bun lamb spread. Smoke red bits out and tie stick instead. Well then they're gone as everything is cross spread. But I high grade me smoke and in the cutter of bread. And sometimes me smoke a little skunk instead. Before you lick the chalice, make sure you're well fed. Smoke and in the stomach, wake up with sore head. Listen where the cat and nine said. Shot when I'm red, the herb does a fly up on my head when I'm red. In the mirror, see me eye blood red when I'm red. The girl them see me dread that and dread when I'm red. I'm with the ration when me catch up in the bed when I'm red. The lyrics and come out on the head when I'm red. Me read the rhythm like a red, I'm more up head when I'm red. Say Jah him just a guide over head when I'm red. Sure, see, there's a thousand mile of smoker. Raise up your hand, every ganja toker. You know big herb like a joker smoker. This a one is a choker. And there's a thousand mile of ganja smoker. Raise up your hand, every ganja toker. You know big herb like a joker smoker. This a one is a choker, well. Well, there's a thousand mile of ganja smokers coming in on the dance floor. Top Cat, the herbal is massive. Ganja smoker, thousand mile of ganja smokers coming in on the dance floor. Thousand mile of the herbal is massive. E allora, se avete il fisico, continuiamo. Se no, se ne andiamo. Lui è Scaramucci Herbsman. Get up from the divano, rega su. Ganja woman and ganja man, if you some more girls put up on the wall. Fire tonight a ganja celebration, make we lose it one by one. Every time we weed it, chalice ever loaded. Anywhere we go when we smoke it get cloudy. Smoke it downtown when they play a slow cloudy. We not give a damn for we not too loudy loudy. Babylon a pass and me tell them howdy. Smoke them marijuana till me get drowsy. When them a go do the soda soda soda soda soda soda. Ganja man smoke it proudy. We go some ganja woman. Si parla che le prime stime per la raccolta di un campo di canapa in Cina vanno da 6.000 a 8.500 anni fa, 10.000 anni fa. Sono testimonianze sufficienti a dire insomma che questi tessuti di canapa più in generale accompagnano l'umanità da migliaia di anni. Marijuana make the whole world know. Got it in the house anytime it starts snow. It's a mountain weed, watch it smoke it a blow. Oh my God, you should have known. Them say we're winning, challenge the balloon. Beh, fino ad adesso ne abbiamo parlato un po' a livello religioso. Reggae, Giamaica. È talmente vasta la discussione su sta pianta che se ne potrebbe parlare per 100 trasmissioni di Reggae Mania. 1000. Un milione. Reggae maniaci, c'è state reggae maniaci. Up like it's up 24/7. He like me flying somewhere in the heavens. Ganja, you take me to another level. Make me feel oh so comfortable. Make me feel cool, keep me real calm. In the winter, keep me real warm. Light up the chalice at the big turn on. Smoke up the place, oh God, what a plan. I know the weed is smoking. You can smell it everywhere. All over my clothes, so me have it. I be carried by the plane, by the train, everywhere. I need more marijuana because my friends are up in here. I was some more high grade till them mad gone crazy. You know, so we not care. se non c'avete il fisico potete cominciare a casa, pagate il conto, alzatevi e andatevene via. Noi continuiamo, Questa è Reggae Mania. Ah, bello avvelenato Scaramucci su sta version, eh? Scarra, scarra! Ma Herbsman, chi è? Pusher, chi è? È Puto! È Puto, il giardiniere! Ah, è il giardiniere, Puto! Boh, mamma mia, regà, senza fiato. E adesso il prossimo è Burru Banton. E continuiamo a picchiare, regà, se non c'avete il fisico, via, a casa. Westmoreland Sensi. Wake up in the morning. Reggmania. Yo, this is a question and I man want an answer. Why Babylon them fight ganja man and ganja the healing of the nation? Sit down, pa. I sing. So it's my last sense me and you come. This is secret dim. The woman and it read by the man. Plant 1 acre by me house and land. Pare che il ritmo, un ritmo che piace parecchio pure a Mario, alla scampagnata gli abbiamo girato. Transplant them, carry them in a old land. Go hide them from the Babylon. I say that I saw Sensimania and I saw lamb's bread. So the two of them down in a separate bed. Should I see me out of center? Ogni riferimento è puramente casuale. Down in a Piscocky suit and me long water boat. Still have a lot of planting to do. Me tell them West Boland. Sabato 22 aprile alla Casa della Pace lo rincontriamo, Francesco pure chiude, 22 aprile Francesco non aprì. Sì, sì, non viene nessuno, tutti giù a Casa della Pace. All the youth them did a act so brave. It's go by the boss, also by the slave. Tell them ganja it is a worldwide trade. I go smoke it over here and I will smoke it over there. Up on New York in a Madison Square. It's not the clothes where me wear or how me comb me ear. Ganja where them sell, turn them in a millionaire. Comunque anche in Italia ci abbiamo avuto una forte tradizione agroindustriale legata alla canapa. Se pensiamo che fino agli anni 50 del secolo scorso, insomma, bisogna dire del secolo scorso, abbiamo passato, vabbè, eravamo i secondi produttori al mondo per quantità dietro la Russia, pensate un po', e i primi, però i primi per la qualità della fibra tessile, con oltre 100.000 ettari coltivati nei primi decenni del Novecento, eh? Tutto a canapa, regà. E questa è Reggae Mania. Of me seed in a big wash pan. Transplant them, carry them in a old land. Go hide them from the Babylon. I say that I saw Sensimania and I saw lamb's bread. Il prossimo pezzo abbiamo pensato ad un messaggio importante. Questa è una serata dedicata a questa pianta favolosa che c'ha mille e mille utilizzi. Adesso ne continueremo a parlare perché adesso arriviamo al bello, regà. Noi vogliamo da questo messaggio, sta pianta è favolosa e c'ha mille utilizzi, però mi raccomando, regà, com'è? No! Yes. Scusa, no, questa non si dice Pulop, me la metti da capo perché questo è un messaggio particolare, importante, va detto chiaro e tondo. Regà, la natura va bene con parsimonia, con controllo, ma mi raccomando, mai decade a sta roba, regà. Purtroppo è la prima tragedia in Giamaica in questo periodo, è solo così. Bamba! No coca, no coca, no coca in my brain. No coca and no ever in gango in my vein. Cause I love marijuana. Come on, I read. No coca, no coca, no coca in my brain. No coca and no ever in gango in my vein. Cause I love. Please, no cocaine. I'm on a real. Well, Pupa go a England, go and check Radigan. Pupa pass through daddy Ernie and a rubber ranks man. Little after Pupa general go in a great stand. Pupa look some tune from down in a great stand. Pupa buck up on the girl named Brigitte Shelly-Ann. Shelly-Ann tell her side that she piss on the land. Torniamo sempre al discorso chiaro della musica reggae. On the bassline, on the version. One little cracky boy come track some cracked man slang. He want to sell Pupa some coke and Lexotan. Pupa lick him Jabon and kick him out of England. Pupa general a rasta so a straight down Japan. No coke and no coke and no coke in my brain. No coke and no ever in Django in my vein. Cause I love marijuana. I'm on a real. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca and no ever in Django in my vein. Cause I love marijuana. I'm on a real. Well, Pupa Congo Angel, rather muffin article. Pupa work with motherland, Pupa no touch chemical. Pupa no move sideway, Pupa can go vertical. Pupa step on the flat, Pupa told gangster. Pupa never take coke, Pupa never take pills. Pupa never. Ma porca miseria, ma sono quasi due ore che stiamo insieme. Madonna, come scorre il tempo quando ci si diverte, regà. No coca, no coca, no coke in my brain. No coca. I know every in Django in a million. Cause I love marijuana. Come on, I siamo andati nell'epoca roots, dove si torna un po' indietro con tutte le volgarità e quant'altro, e si torna un po' a quei testi di protesta e religione che c'erano negli anni 70, no? Che volevamo parlare dei mille usi, mille usi della canapa, e per esempio uno, il più stupido, la carta. Qualcuno dice che fare la carta con la fibra e il legno della canapa comporta importantissimi vantaggi, per esempio innanzitutto con l'enorme produttività di cellulosa. Infatti, per esempio, un ettaro di canapa, un ettaro, uno, produce in pochi mesi la stessa cellulosa prodotta da 4 ettari in decenni, però. Cioè, cannabis, fa così la foglietta, possiamo scacciare play. Noi ci sentiamo, Luciano, a tutte le autorità, legalize. Vogliamo parlare del settore alimentare. La bioedilizia. And then man will advertise it. Legalize it. Oggi è sfuggita su un tavolino dentro un bar, in prima pagina su un giornale si parlava di biocarburanti. Il tessile. La bioedilizia. Oh, non spigne troppo, sennò ci bannano, eh. Il settore alimentare. Il seme della canapa è più nutriente che ci sia. Dalla spremitura a freddo dei semi si può ricavare un olio a uso alimentare, cosmetico, che è considerato addirittura un vaccino nutrizionale. nel senso che ha tutte le qualità di un alimento protettivo, se utilizzato quotidianamente aiuta ad esempio a rafforzare il sistema immunitario, a far abbassare i livelli di colesterolo, che io mamma mia ce l'ho proprio su una ruota, capito? Dai semi è possibile inoltre ricavare farine per la creazione dei prodotti da forno, da dolci e cereali, no dai grilli, regà! Heads up government, burn it. Politicians import it. Clinton smoke it. Yeah. But him say he never inhale it. Never mind, you got to legalize it. And don't you criticize. Ci sono addirittura delle applicazioni antibatteriche. Una società del Colorado sta usando la canapa per combattere la diffusione delle infezioni da stafilococco negli ospedali, grandissima cosa, raga. Il motivo è che dalla canapa si ottiene un tessuto antibatterico, al contrario del cotone, dei tessuti in poliestere, in cui è noto che i batteri sopravvivono giorni, addirittura mesi, i lavi, i sciacqui. Varie sostanze chimiche che si trovano nella canapa hanno dimostrato di possedere vere e proprie proprietà antibatteriche e antifungine. E questa è Reggamania. Legalize it. Yeah. And Rastaman will advertise. Dai dai, che ormai stiamo insieme da un po' di tempo, ci ascoltiamo l'ultima tune, poi dopo ci diamo la buonanotte. Lui è Errol Bonnick, International Herb. Oh, I say that the holy herb I mash up creation. Oh, in fact it does the opposite, it preserves all creation. Yeah. Oh, I say that the holy herb I cause this rebellion. Oh, when the only rebellion is right over wrong. Yeah. The international herb, ironically, a spiritual oneness for every good deed. The international herb. Niente, come al solito, due ore sono trascorse così, così veloci che non, per esempio stasera c'erano tante, tante, tante cose da dire. Ne abbiamo dette manco la metà. Abbiamo i discorsi, ci vorrebbero un milione di puntate di Reggamania per parlarne. Un altro uso. Adesso stanno studiando anche dei nanomateriali per stoccare energia. Il grafene, che è spesso pubblicizzato come il futuro delle nanotecnologie, essendo il materiale è più sottile, più forte, più leggero mai realizzato. Ma come si comporta la canapa a confronto? A quanto pare è ancora meglio del grafene. All'inizio di quest'anno un gruppo di ingegneri chimici dell'Università di Alberta ha trasformato le fibre di canapa in un nanomateriale con proprietà simili al grafene, ma con un costo finale molto più basso. Inoltre, nell'ambito di dispositivi di accumulo di energia come batterie, condensatori, il nanomateriale in canapa ha dimostrato proprietà elettroniche di stoccaggio superiori addirittura al grafene. gives you a higher meditation. Madonna, ma che aspettiamo? Che cosa aspettiamo? Sail away from your misery. Vabbè, parla dei benefici dell'ambiente, a me mi sembra un po' superfluo, eh. Take a sip from the chalwa, set yourself free. È capace di sequestrare CO2 4 volte tanto rispetto agli altri alberi. Cioè, raga, questa è una pianta assurda. Secondo me non è manco del suo pianeta. Give thanks for the healing herb. Sacrament can share your love with everyone, yeah. Set the hurt, no comfort, harm no one. This is not a junkie bandwagon. International herb, ironically, a spiritual oneness for every good deed. The international herb, ironically, brought us together for love and unity. The international herb, ironically, spiritual oneness for every good deed. Ci diamo la buonanotte. Salutiamo tutti. Questa che è? Nel bunker gira un vinile, negli anni resiste, reggae maniaconi, cava sound system, radio pirata tutti i giovedì, rock di discarus pure ragamuffin. Nel bunker suona uno stile che ancora stupisce, reggae maniaconi, cava sound system, radio pirata tutti i giovedì. Rocksteady, Ska Roots and Ragamuffin. A tutti i reggae maniaci, da chi ci ascolta con la cuffietta sul divano, da chi ci ascolta col mini sound, da chi ci ascolta da quelle casse appese allo Spirit 24, e buonanotte. Cava Sound dice così, tutte. Passare ovunque, capito? Vabbè, siamo stati 2 ore insieme. Ringraziamo ancora tutti i reggae maniaci che ci ascoltano in tutti i modi, tutti quelli che hanno fatto casino e rotto i bicchieri allo Spirit 24 d'Arfratto. Jacopo, Patrick, Alessandro e Fratta. Devo fare l'appello, bella Emanuele che ci ascolta sempre, i Ratatouille che stanno al bunker loro, Chiuppo che ha consumato la cassettina, Modello, Faglia Pombabilo, troppi, dai, bella regà. Vabbè, allora ricordiamo ancora l'appuntamento di sabato 25 marzo a Branca, radio indipendente da tutta Italia, Gemini Day. Probabilmente ci staremo, famo un salto e Gigi, saremo a fare una birra. Ci proviamo. E tante belle sorprese per aprile. Beh, aprile c'è Maglio alla Casa della Pace, eh? Fine aprile, verso proprio la fine 22 aprile. Saremo più precisi poi, Ma che saremo più precisi? Montiamo, ma che lo portiamo sto muro arancione? Chissà. Gli mettiamo i bretelle se lo mettiamo a spalla. Vabbè, poi faremo ancora un'altra puntata per continuare a parlare di questa pianta meravigliosa che, vabbè, oltre ai scopi, diciamo così, ludici, c'ha tanti altri scopi, benefici per l'ambiente, come abbiamo detto, l'applicazione antibatteriche, nanomateriali, cosmetica, il tessile, il biocarburante, la bioedilizia. Buonanotte! Buonanotte ragazzi, sogni d'oro, buon viaggio a tutti. Buonanotte, buonanotte.